GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuovo blitz al Silos di Trieste, all'interno una cinquantina di uomini delle forze dell'ordine con la scientifica e i cani antidroga, controllati i documenti di oltre un centinaio di richiedenti asilo. La sindaca di Gradisca commenta l'intervista di Fedriga al Corriere della Sera. Finalmente ha ammesso che i CPR non sono la soluzione a tutti i problemi. Alla regione serviranno 300 milioni di euro entro la fine dell'anno per non far andare in rosso i conti delle aziende sanitarie. Sono ormai 1000 i corregionali a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza in vista delle nuove misure di sostegno che entreranno in vigore il prossimo 1 gennaio. L'INPS spiega cosa fare per ottenerlo. Dopo il rimbalzo seguito al calo dovuto al Covid, il comparto del legno arredo è nuovamente in sofferenza. Calano produzione, ordini ed esportazioni. Calcio, ancora una vittoria per la Triestina in trasferta nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Gli alabardati hanno battuto per 1-0 la Virtus Verona. Controllo straordinario questa mattina al Silos di Trieste, dove i migranti trovano rifugio. All'interno c'erano 150 persone che avevano passato lì la notte. 25 sono state portate via dalle forze dell'ordine con tanto di scientifica e cani antidroga perché sprovviste di documenti di accoglienza. A 2 settimane dalla prima operazione di questo tipo, le forze dell'ordine sono tornate nel Silos di Trieste per procedere a un'altra tornata di controlli sulle persone accampate in condizioni di estremo degrado all'interno della struttura. Ne sono state contate 230, 25 delle quali, tra cui una donna, sono state portate in questura per essere identificate attraverso le impronte digitali, perché non avevano documenti con sé. Le altre si dividono tra richiedenti asilo, compresi quelli che stanno attendendo la convocazione per presentare la domanda, e chi ha regolare permesso di soggiorno. L'operazione, condotta da una cinquantina tra agenti e funzionari di polizia e carabinieri, compresa la scientifica e un'unità cinofila della Guardia di Finanza, si è svolta in un clima tranquillo. Sul posto anche alcuni agenti della polizia locale. In 2 settimane la situazione non è migliorata. Anche in questo caso diverse persone dicono di essere costrette a dormire nel silos da mesi, sempre in attesa di un posto nel sistema di accoglienza. Gli operatori del settore, alcuni dei quali accorsi alla struttura, spiegano che le persone in attesa di collocazione sono almeno 250 e una cinquantina al giorno quelle di passaggio che partono subito verso altre destinazioni. Inoltre, continuano, un fenomeno in aumento nelle ultime settimane dopo il primo blitz al Silos è quello delle persone che cercano ospitalità da conoscenti oppure in altri luoghi per qualche tempo, prima di tornare per provare a entrare nel circuito dell'accoglienza formalizzando le richieste di asilo. Oggi in un'intervista sul Corriere della Sera il presidente della Conferenza delle Regioni parla di immigrazione spiegando perché l'accoglienza diffusa non funziona e facendo anche riferimento al CPR di Gradisca che, afferma il presidente Fedriga, funziona bene, non ha impatto sul territorio ma non è la soluzione di tutti i problemi. Ed è proprio su quest'ultima dichiarazione che interviene la sindaca di Gradisca, Linda Tomasinsic. Fedriga, noi ha sempre detto che il CPR era la soluzione. Sono compiaciuta, dice, che si sia reso conto che non sia così e il nostro territorio lo dimostra. Oltre agli 80 migranti al CPR, ne abbiamo altri 600 al CARA e un'altra ventina che dormono all'Addiaccio. Non è vero, aggiunge la sindaca, che il CPR non ha impatto sul territorio. Anzi, le risse che si sono verificate all'interno e le fughe di alcuni migranti dalla struttura, che tra l'altro si trova nel centro abitato, hanno allarmato i cittadini e continuano a creare uno stato di disagio. Nella stessa intervista al Corriere della Sera, nella sua qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, il presidente Fedriga ha parlato di sanità, chiedendo più risorse e sostegno alla medicina territoriale. Con la manovra di assestamento, tra qualche settimana verranno stanziate risorse per consentire per il 6° anno consecutivo al sistema sanitario di mantenere il suo equilibrio finanziario. A dirlo all'assessore alla salute Riccardi. I conti si fanno a fine anno, aggiunto, e dentro fine anno, come era emerso dalle cifre previsionali delle 3 aziende sanitarie regionali, servirebbero circa 300 milioni di euro per non andare in rosso. La Corte dei Conti, che in un recente report ha promosso il Friuli Venezia Giulia sul raggiungimento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, ha ravvisato anche uno sforamento del tetto di spesa per prestazioni erogate attraverso il privato accreditato. A fronte di un limite regionale di 109 milioni, il valore complessivo è stato di 128 milioni nel 2022. In un'intervista al Corriere, Federica ha auspicato tuttavia un ulteriore potenziamento di accordi col privato convenzionato. Il problema dello sforamento dipende da che dati leggiamo, sottolinea Riccardi, che fa notare come il ricorso al privato accreditato sia in Friuli Venezia Giulia all'8,9%, a fronte di una media italiana di quasi il 18%. Dobbiamo mettere insieme un'alleanza equilibrata al pari delle altre regioni italiane, ha aggiunto. Io penso che per prestazioni di bassa, in particolare di bassa e media intensità, in particolare le casistiche riguardano protesica, oculistica e diagnostica, noi alcuni interventi di sostegno al privato accreditato che ha una maggiore efficienza, una maggiore velocità. L'assessore è intervenuto a Palmanova all'inaugurazione di una nuova automedica e di un'ambulanza destinata all'azienda sanitaria Friuli Centrale, acquistati grazie alla raccolta fondi destinata alla protezione civile durante la pandemia, circa 700.000 euro. Anche l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e quella Giuliano Isontina riceveranno nei prossimi mesi 2 ambulanze ciascuna. È stato rimosso all'alba il pullman della strage di Mestre, dove hanno perso la vita oltre una ventina di persone. A lavorare alla rimozione del mezzo anche una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia, che è stata impegnata tutta la notte e ha fatto rientro oggi in tarda mattinata. Sono le 12.37, diamo uno sguardo al meteo, cielo da coperto a variabile sulla nostra regione, le temperature registrate alle ore 11, Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi e mezzo, Pordenone 21 gradi, Gorizia 22, Udine 19 gradi e mezzo, Tolmezzo e Tarvisio 15 gradi, Forni di Sopra e Piancavallo 13, Sappada 12 e mezzo, Montezoncolan 9 gradi, Monterussari 8, Lignano e Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare nelle due località 22 gradi e mezzo. Le previsioni: questo pomeriggio avremo cielo variabile su pianura e costa, in prevalenza nuvoloso sulla zona montana, probabili piogge sparse, in genere deboli o moderate, specie nelle ore centrali della giornata e sulle zone interne, dove saranno possibili rovesci un po' più consistenti e forse anche qualche locale temporale. In serata tempo migliore su tutte le zone, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, anche sostenuta dal pomeriggio. Domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio, da poco nuvoloso a variabile sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata al mattino, poi in calo con probabili venti di brezza, specie sul settore occidentale. Durante gli ordinari controlli di retrovalico, la polizia di frontiera di Gorizia ha controllato al casello di Villesse un furgone con targa bulgara. A bordo nascoste una decina di saldatrici in ottimo stato, risultate rubate. L'uomo, un cittadino bulgaro, è stato indagato in stato di libertà per ricettazione, mentre il furgone e tutto il materiale rinvenuto all'interno del vano di carico è stato sequestrato. Dopo il rimbalzo seguito al calo dovuto al Covid, il comparto del Regno Arredo è di nuovo in sofferenza. Calano produzione, ordini ed esportazioni. Non è indenne dal rallentamento economico anche uno dei comparti più forti e dinamici della nostra regione, quello del legno arredo. A certificarlo i dati del gruppo Legno Mobile, sede di Confindustria Udine. Secondo le analisi dell'Ufficio Studi degli Industriali Friulani, su dati Istat, la produzione del comparto legno in Italia è diminuita nei primi 7 mesi del 2023 del 13,8% rispetto al 2022, quella del comparto mobile invece del 5,9%. La produzione del legno dopo la caduta subita nel 2020, meno 7,3% in Friuli Venezia Giulia a causa Covid, aveva registrato nel 2021 un netto rimbalzo, più 16,1% in Friuli Venezia Giulia, continuato sia pure in decelerazione nel primo semestre del 22, più 3,2%, e un crollo nella seconda parte dell'anno, meno 13,8%. L'andamento riflessivo è proseguito anche nel primo semestre del 2023, con un calo del 10%. Anche le esportazioni nei primi 6 mesi dell'anno in corso, evidenzia il capogruppo Marco Vidoni, sono diminuite rispetto al 2022 in valore del 21,9% per il comparto del legno e del 9,9% per quello del mobile. In calo risultano anche gli ordini, meno 6,7% in regione, a conferma che il contesto per gli ultimi mesi dell'anno si presenta complicato. La situazione desta preoccupazione, evidenzia Vidoni. I nostri competitor in Europa l'Europa se la passano addirittura peggio, ma le imprese italiane hanno sempre dimostrato una forte reattività. Nutro la speranza che anche questa volta sappiano reagire. Il comparto legno arredo in Friuli Venezia Giulia conta 2.316 localizzazioni, 20% dell'industria manifatturiera regionale e oltre 19.000 addetti, 16,5% dell'industria manifatturiera del Friuli Venezia Giulia. Poco più di un mese fa, il 1° settembre, è entrato in funzione il portale dell'INPS a cui iscriversi per le nuove misure di sostegno alle persone in difficoltà economiche. Alla fine dell'anno, infatti, sarà definitivamente sospeso il reddito di cittadinanza. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Supporto per la formazione e il lavoro e assegno di inclusione sono i due nuovi strumenti per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Sono stati creati per superare il reddito di cittadinanza, che resta in vigore solo per le famiglie che hanno un componente minore, disabile o con almeno 60 anni di età e comunque non oltre il prossimo 31 dicembre. Da luglio ad oggi un migliaio di corregionali ha ricevuto dall'INPS un SMS che li ha informati della cessazione della misura precedente. Francesca Filla, direttore vicario INPS Friuli Venezia Giulia. L'interessato che riceve l'SMS ha due opzioni: o continuare a percepire il reddito di cittadinanza fino a fine anno nell'ipotesi in cui il suo nucleo familiare venga preso in carico dai servizi sociali del comune, la presa in carico può avvenire anche successivamente all'invio dell'SMS, oppure fare appunto la domanda per il nuovo supporto formazione e lavoro, quindi questa nuova misura che garantisce un sussidio di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi e ovviamente a condizione che si frequenti un corso di formazione professionale. L'iscrizione si effettua attraverso il portale SISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, realizzato dall'INPS, a cui finora in regione si sono iscritte circa 500 persone. I corsi sono inseriti nella piattaforma SISL, quindi l'interessato può scegliere i corsi di formazione professionale che ritiene più idoneo ovviamente alle sue caratteristiche. Sono 61 gli aspiranti fisioterapisti ammessi al corso triennale di laurea nelle due università della regione, Udine e Trieste. La prova di selezione ha coinvolto 459 iscritti nei due atenei. I posti a disposizione a Trieste erano 30, altrettanti a Udine. Tanti gli idonei non ammessi per mancanza di posti, a conferma dell'interesse per questa professione. A Pordenone, nella sede del liceo Grigoletti, si è aperta l'assemblea sindacale della CISL Scuola Friuli Venezia Giulia. All'ordine del giorno il rinnovo del contratto, le pensioni, il precariato e il reclutamento. Precariato, pensioni e rinnovo del contratto nazionale sono i temi al centro dell'assemblea sindacale della CISL Scuola a Pordenone. Presente il segretario nazionale Roberto Calienno. È un contratto per noi importante che comunque segna un cambiamento rispetto al passato, perché dà a tutti la possibilità di avere un incremento stipendiale anche un po' superiore rispetto a quello degli altri comparti. È vero, non c'è il recupero dell'inflazione, ma non poteva esserci perché si tratta di un contratto 2019-21 che quindi non fa i conti con quella che è stata l'inflazione e con quelli che saranno i nuovi investimenti, le nuove risorse che noi chiediamo. È un contratto importante perché riconosce la parità di diritti del personale precario, tant'è che a loro, per loro sono stati investiti ben 70 milioni di euro affinché i 3 giorni di permesso retribuito siano fruibili anche per loro. In Regione Friuli Venezia Giulia, su oltre 1.600 posti disponibili per la stabilizzazione di docenti supplenti, il Ministero ha autorizzato circa 600 stabilizzazioni. La segretaria regionale della CISL Scuola, Antonella Piccolo. In realtà abbiamo avuto anche meno stabilizzazioni di quelle autorizzate proprio per incapienza delle graduatorie di merito. Abbiamo quindi circa 1.200 posti vacanti e disponibili su cui stanno lavorando, continuano a lavorare dei supplenti, a questi si aggiungono anche tutte le supplenze al 30 giugno sui part-time, davvero un esercito ancora di precari nella scuola che non ha più ragione di essere. Le situazioni più critiche nella scuola primaria e in quella secondaria per le materie scientifiche, il sostegno e il personale ATA. Dobbiamo prevedere dei concorsi così come sono previsti, ma al tempo stesso dobbiamo poter assumere, come avveniva fino ad alcuni anni fa, anche dalle graduatorie provinciali per le supplenze. calcio, la Triestina non ferma la sua corsa nemmeno in Coppa Italia di Serie C. Impegnati nel primo turno eliminatorio sul campo della Virtus Verona, gli alabardati hanno vinto ieri sera per 1-0. Una Triestina che Tesser presenta diversa, ma comunque vincente contro la Virtus Verona, esordio assoluto per Agostino, Gunduz e Kozlowski. Occasione alabardate nel primo tempo firmate da Elazrak e Adorante, e poi ancora Kozlowski che non trova la porta. Prima della mezz'ora uno squillo della Virtus con il tiro di Zigoni fuori. Cacinari e qualche minuto dopo Redan sono le novità della Triestina nella ripresa, con la Virtus più pericolosa con Begheldo. A vincere il duello per due volte con l'attaccante però è sempre il portiere alabardato Agostino. Tesser, per dare forza all'unione in mezzo al campo, inserisce Correia e Vallocchia. Virtus comunque ancora pericolosa con il colpo di testa di Menato e la grande parata di Agostino. La risposta della Triestina è nel tentativo di Elazrak, che sfiorò il palo ad evitare i supplementari, il gol di Andrea Vallocchia. Il 26enne centrocampista di destro regala agli alabardati la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia. Il tecnico della Triestina, soddisfatto alla fine della vittoria e della crescita di tutti i giocatori, in particolare di quelli stranieri, che stanno acquisendo una determinata mentalità, sottolinea Tesser. Prossima avversaria la vincente di Albino Leffe Renate, ma intanto la Triestina pensa già alla sfida di campionato sabato alle 16:15 sul campo delle Renate dell'ex tecnico Pavanel. Basket esordio nella Serie A2 per la Pallacanestro Trieste, che nel Palasport di Via Valmaura affronta l'Agri Bertocchi e Orzi Nuovi per l'ultima partita del primo turno, inizio alle 20:30. Tanti anche oggi a Trieste gli appuntamenti della Barcolana. Alle 16 si inaugura il Sea Summit, al quale parteciperà Jeremy Rifkin, economista, sociologo e saggista statunitense, mentre stamattina ha aperto l'intero villaggio Barcolana. Intanto le iscrizioni alla regata di domenica hanno superato le 1.400. È il giorno dell'apertura dell'intero villaggio Barcolana a Trieste, con il conto alla rovescia per la Coppa d'autunno di domenica, che moltiplica anche gli appuntamenti a terra, dagli stand dunque alle riflessioni del Sea Summit. L'evoluzione della Barcolana è anche questo, spiega il direttore sportivo dell'evento, Dean Bassi. E quest'anno proprio il nostro mantra, la nostra idea, il filo conduttore è il Barcolana Crew. Vogliamo che tutti stiano bene, che abbiano un'esperienza unica, che stiano bene a mare. Per esempio abbiamo spostato la linea di partenza lievemente più a largo per dare più spazio e rendere ancora più divertente, senza avere inutili mal di testa prima della partenza. E anche a terra, il terzo tempo da noi è essenziale. La vela fa bene a qualsiasi età. Io credo che chiunque galleggi con qualsiasi mezzo percepisce il beneficio del mare. Penso che sia una questione sia da un punto di vista prettamente fisico, ma il contatto diretto con la natura e in questo mondo che deve ricordare quello che è l'ecologia, quello che è la cultura del mare anche. Il mare è una parte importantissima del nostro pianeta e le cose si uniscono portando un grande beneficio. E per far partecipare proprio tutti, anche chi vive su mari e oceani lontani da Trieste, da quest'anno c'è una novità. Quest'anno abbiamo uno strumento innovativo, si chiama Ticket to Race, che permette a chi vuol venire da lontano, dove portare la barca è effettivamente complesso, possono iscriversi per la prima volta come persone e non come imbarcazioni. Saremo noi a procurare tutto quello che serve per un'esperienza unica qual è la Barcolana. Tornano a casa dalla quinta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, appena conclusosi a Firenze, con un bel premio gli studenti dell'Istituto Volta di Udine, che hanno presentato il loro progetto Digital Detox, nato dalla collaborazione di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La proposta della Scuola Friulana è stata selezionata come uno dei tre progetti vincitori del bando promosso dal Festival Nazionale dell'Economia Civile. I ragazzi coinvolti nel progetto, una cinquantina delle classi terze dell'Istituto Udinese, hanno affrontato i rischi della digitalizzazione con l'obiettivo di rendere più sano e sicuro il proprio rapporto con la tecnologia e i social network. Un appuntamento di spettacolo stasera alle 20:30 al Teatro Miela di Trieste, nell'ambito della stagione cameristica Cromatismi 2.0, la Chamber Musical Miela, diretta da Fedra Florit. Suonerà una delle pianiste più amate del nostro tempo, l'ucraina Anna Kravchenko, con un recital dedicato a Brahms e ad alcune delle più rappresentative partiture romantiche di Schumann. Della sua musica ha scritto il New York Times, le interpretazioni